E non vi lascio in sospeso su, insomma, l'ambiguità, probabilmente, che avevo posto in forma così di domanda e di gioco così surrealista radiofonico, vogliamo porla così. Non vi lascio in sospeso perché poi Curia è un progetto musicale che partendo probabilmente anche da un riferimento che si può rintracciare anche in musiche folcloristiche, e sicuramente allontana tutta la faccenda, e quindi anche partendo proprio da Officina Schwarz, che ci faceva il ribaltamento folcloristico e sonoro in chiave brutista di Bella Ciao, trasformato in Ciao Bella, nel più facile, così a livello nominale, sicuramente a primo impatto Ciao Bella, che in realtà appunto nasconde una rottura, volendo anche drammatica, però anche in nuce un nuovo che si appresta sia in termini programmatici, come Confut, comunisti futuristi di Officina Schwarz, sia come progettualità dentro Curia, che sarebbe anche questo probabilmente un gioco per ridefinire non tanto delle chiese, ma tanto appunto dei passati sonori, che appunto magari formavano, se non proprio delle chiese, sicuramente delle istituzioni dentro il suono, dentro le musiche popolari che attraversano un po' tutte le musiche, poi a dire la verità, lontananze che fanno del folk un oggetto, se vogliamo un soggetto perduto, una perdita che va quindi a smarrire un senso della tradizione, che si reinventa a questo punto, e che quindi dà questa eco lontana, ci dà la possibilità di trasformare in sonorità differente, altra, e appunto cercando di andare oltre quell'istituzione sonora, quel senso anche comune legato alla musica, al concetto folcloristico e popolare, per dare, magari anche inventandolo, perché no, di sana pianta, appunto, un nuovo concetto, una nuova idea di folk, non più quindi paganeggiamenti come nella scorsa trasmissione 451, ma vere forme di forse futurismo folcloristico, seppur insomma sembra un ossimoro tutta la faccenda, però appunto dentro Curia, anche dentro Astra Social Club, che abbiamo sentito prima, che addirittura partendo da un'origine, da un suono che istituzionalmente è correlato con il suono ancestrale, ovvero il suono del battito, il suono della percussione, quindi un suono che tambureggia, che ci riporta a una sorta di Africa antichissima, appunto ancestrale, qua quasi splatterizzata, resa assolutamente noir, dentro appunto una sorta di accelerazione impossibile, e quindi in questo caso immaginifica, che ci riporta ad un altro, direttamente un altro sonoro, che Astra Social Club, dopo vibaccate dall'orchestra, sicuramente sta reinventando, e sta appunto dentro questa reinvenzione di una eco lontana, che questa sera chiamiamo folk, trattata appunto attraverso questa strana canalizzazione che è noise appunto, come rumore anche culturale o controculturale. Raglani dentro appunto i suoi minuti di astrazione, di biforcazione semmai anche folcloristica. Thank you. un finger picking triturato, quello di Ragnani, giovane artista che si rifà tanto ai brumi sonori di Merzbow, ma anche ai cluster degli stessi cluster, o a certe anche idiozie assolutamente geniali e creativissime di Nars Wittund. Con Ragnani si va appunto in quel mondo di traslazione massima anche tra noise e folk, un incrocio che fa quasi una tabula rasa rispetto appunto ai due suoni, creando di nuovo, di sana pianta anche per molti aspetti, una sorta di tessitura del sogno, quindi anche di nuove esperienze legate a queste sonorità che ci abbandonano e ci fanno appunto cullare dentro però appunto anche sostanze piuttosto acide come sonorità appunto di brumi sonori e di folcheggiamenti che richiamano insomma una sorta di ancestralità nel loro essere appunto così legati all'onirico. E se con Ragnani si va in quella materia particolarissima che tra poco riguarda anche i più, se non già riguarda, e magari mi sentono in stato semicosciente, appunto un onirismo che si fa preponderante dentro le musiche quasi post blues o blues digitali, potremmo considerarle così se mi permettete insomma l'azzardo. Stéphane Mathieu e Taylor Dupri, due firme veramente notevolissime della glitch music degli anni 90 e dei primi 2000, che hanno elaborato insieme un disco di grande poesia sonora, una sorta di blues delle stelle, se non vogliamo proprio così dichiarare un certo amore anche per il cosmo, come d'altronde c'era anche appunto in Ragnani, che ha anche una particolarità, quella di essere decisamente influenzato dalle visioni di Werner Herzog, quindi particolarmente cosmicheggiante anche in quel senso, l'Herzog quello di quella natura iperrealista, quasi per quasi senso microscopico e veramente interiore, quasi di vedere, di filmare l'aspetto naturistico. Stéphane Mathieu e Taylor Dupri c'è una sorta appunto di interiorità dentro un blues che non è chiaramente quello del definitivo o definito così dal genere, ma un blues chiaramente attitudinale, ovvero un suono primordiale che è cercato, e quindi attraverso la digitalizzazione anche cercare un suono che vada il più vicino possibile a quello sfregolamento dei sassi, dei legni per creare il fuoco, un po' come insomma una sorta di uomo primitivo, e quindi ritorno al primitivo appunto, di nuova sensibilità, di cui parlavamo anche nella scorsa trasmissione di 451 frammenti sonori per quanto riguardava appunto le synth folk, e quindi sonorità che vanno quasi a rintracciare appunto un nodo o se vogliamo proprio un osso, una struttura musicale sonora che ci riporta veramente anche molto indietro. Stéphane Mathieu quindi con Taylor Dupri dal loro gioiello uscito proprio da pochissimi giorni. White Heaven e Solitude of Spheres erano i due pezzi ascoltati da un disco veramente notevole come quello di Stephen Mathieu insieme a Taylor Dupri, due animi decisamente sperimentali dentro la digitalizzazione del suono, con anche una maniera inseguita e perseguita nel corso delle loro carriere per tutte e due, e però questa maniera che non sfocia mai nel manierismo diventa non un limite ma una possibilità anche tecnica, ma soprattutto ideativa, di andare quasi a ricercare un suono che si vuole appunto legato quasi alle sfere. Non è un caso il titolo, seppur si parla di solitudine delle sfere, sicuramente una sorta di musiche di queste hanno in testa Mathieu e Duprin, questo disco che veramente viene svolto in maniera molto poetica e con questa voglia di avvolgere appunto l'ascolto e l'ascoltatore dentro questi suoni che vanno appunto a ricercare questa sorta di primordialità che si esprime in maniera veramente molto, molto delicata, una sorta poi di noise che viene più legato alla digitalizzazione, quindi non alla pulizia di questa, che appunto è stata la maniera del glitch, quindi anche di Mathieu Dupré, ma proprio di quella di poter andare a rintracciare quei microsonori, quelle intimità sonore, potremmo dire, dentro proprio il microsolco anche, quindi di quello che si vorrebbe un disco che giri ancora intorno al folk, ha un'idea molto molto traslata di questo, un po' il concetto che ha accompagnato il concetto che ha accompagnato questa sera 451 frammenti sonori in mia compagnia, ovvero Max Macchia, che ha visto protagonisti People, Sun City Girl, General Strike, Vox, Commissar Euler, Mama Bar, Officine Schwarz, Curia, Astra Social Club, Raglani e Stéphane Mathieu, appunto Taylor Dupré, che abbiamo ancora in sottofondo. Io vi rimando alla prossima domenica, non vi dico se ci sarà Eliseo, non vi dico neanche se ci sarò io, chissà cosa succederà, quindi non anticipiamo niente e quindi butto le mani avanti, come si suol dire. Vi do però di nuovo l'indirizzo del blog 451 frammenti sonori no blogs, quindi con la s finale, .org, per chi volesse riascoltare la trasmissione, per chi vuole recuperarla, perché magari si è messo in onda tardi e particolarmente notturno, quindi simpatico a noi, sia Max che Eliseo di 451. Non è vero, si stanno anche simpatici quelli che domani mattina si dovranno alzare e quindi arrivano soltanto a un certo punto della trasmissione, e di fatto il blog, che tra l'altro è curato dal nostro caro Lorenzo, che saluto, colgo l'occasione, e vi permette di fare questo, oppure appunto di andare magari a riassaporare un passaggio particolarmente riuscito, se ce ne sono stati, poi fate un po' voi anche in questo senso. Io vi saluto, quindi Max Macchia vi rimanda alla prossima settimana o alla prossima di 451 frammenti sonori. Vi lascio alla scaletta di Città del Capo, ancora qualche secondo di Mathieu e Dupré, poi sigla e poi appunto un saluto come classico che faccio, ovvero un augurio. Fate i bravi e basta, via, per stavolta vi dico soltanto questo, tanto poi c'è tempo per fare i cattivi.